GR24, il sole 24 ore. I cortei, un malessere da non sottovalutare, l'appello di Napolitano nelle università assemblee per decidere le prossime manifestazioni. Migliaia bloccati negli aeroporti europei, l'odissea anche di molti italiani, oggi il vertice per il blocco sulla A1. La metà della ricchezza in mano al 10% delle famiglie, così il rapporto di Bankitalia. Il comune di Milano dia le case ai Rom, un giudice accoglie il ricorso dei nomadi sgomberati. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. La riforma dell'università è approdata al Senato. Questa mattina è cominciata la discussione generale tra le polemiche per le discussioni del fine settimana sulle violenze a Roma. E a intervenire è stato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La protesta pacifica, benché spesso sviata da inammissibili violenze di tanti cittadini nelle strade delle nostre capitali, è una spia di malessere che le democrazie non possono ignorare. Napolitano ha parlato così, incontrando questa mattina il corpo diplomatico. Ma intanto, dicevamo, in aula si discute, il ministro Gelmini prova a riportare la calma, il senatore Gasparri rilancia le sue posizioni. Andiamo a Palazzo Madama da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, settimana decisiva per l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla riforma universitaria, firma del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini in Senato. La seduta è iniziata a rilento, mancava il numero legale, ma intanto si discute più che altro della proposta del capogruppo PDL Maurizio Gasparri di effettuare arresti preventivi degli studenti che manifestano. Questa mattina nell'aula di Palazzo Madama la discussione è stata accesa e tocca al ministro Gelmini cercare di riportare la discussione al testo. A sorpresa la Gelmini lancia una proposta, il disegno di legge può essere migliorato, ma sentiamo cosa ha detto. Faccio un appello a tutti perché si ritrovi il senso di responsabilità, la misura e un equilibrio che credo siano indispensabili per affrontare un provvedimento complesso quanto importante come il disegno di legge università. Ricordo che in queste ore siamo impegnati per affinare il testo, per ragionare sui contenuti. E il ministro Gelmini difende la riforma: abbiamo scelto una strada diversa rispetto al Regno Unito, noi non abbiamo aumentato le tasse universitarie, in Inghilterra gli studenti protestano perché pagano di più. Ma Gasparri insiste, nei cortei ci sono addirittura potenziali assassini e dall'opposizione Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori risponde: è Gasparri ad essere un assassino della democrazia? Per Felice Belisario, sempre DV, Gasparri è un terrorista politico e fa il contrario di quanto suggerisce il presidente Napolitano. E per il momento da Palazzo Madama è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Il vice capogruppo del PDL al Senato, Gaetano Quagliarello, ha annunciato che si recherà personalmente alle 14 ad un forum con i capi del movimento per un confronto sugli argomenti della riforma. Non neghiamo il confronto ai ragazzi, ha detto, nelle università che succede? Questa mattina ci sono assemblee un po' ovunque, alle 14 appunto ce ne sarà una anche alla Sapienza, dove poi nel pomeriggio dovrebbe arrivare una decisione sui cortei di domani e mercoledì, e alla Sapienza c'è la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, si dicono pacifici ma esasperati e per questo determinati a far valere le proprie ragioni. Gli studenti della Sapienza sono in assemblea, lo saranno per tutto il giorno nelle varie facoltà per mettere a punto quella che chiamano una forma di protesta intelligente che avrà luogo nella giornata di domani ma che culminerà mercoledì in concomitanza dell'approvazione della riforma Gelmini. Probabile un corteo che partirà dalla Sapienza, un altro da Piramide, ma anche percorsi alternativi per spiazzare le forze dell'ordine e tentare di aggirare i varchi. E parlando con molti di loro, la sensazione è che ci sia molta rabbia in queste ore, tra l'altro montata per le parole di Gasparri che ha proposto gli arresti preventivi. Mercoledì dunque non si potranno escludere esplosioni di violenza come quelle del 14, violenza che in realtà molti studenti non condannano perché dicono sono state il frutto dell'esasperazione, delle provocazioni del governo, tra queste l'istituzione di una zona rossa. In questo quadro si inseriscono in queste ore poi tentativi di mediazione da parte della questura che sta cercando un dialogo con l'ala più estrema. Intanto è stato identificato il ragazzo che durante gli scontri con un casco ha colpito mandando all'ospedale un 15enne, si chiama Manuel De Santis, ha 20 anni, si è assunto la responsabilità dell'accaduto e chiede di incontrare i genitori del ragazzo che invece è in attesa di un intervento al NASO a San Giovanni di Roma. E per il momento da Roma è tutta quella linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Sentivate, assemblea in corso alla Sapienza in ogni università italiana, torneremo a parlare naturalmente nel corso della giornata. Ma continuano, dicevamo, a suscitare polemiche l'intervento di Maurizio Gasparri, il capogruppo del PDL. Semplificando, ha detto ieri che contro i cortei studenteschi servono arresti preventivi, evocando il 7 aprile 1979, quando furono incarcerati capi dell'estrema sinistra. Dario Ceccarelli ne ha parlato con Mario Capanna, leader degli studenti degli anni 70. Proporre gli arresti preventivi per quanto riguarda manifestazioni di protesta civile, politica, culturale, significa praticamente creare una sorta di clima da ventennio fascista, nel senso che di fronte a un grande fenomeno sociale, milioni di giovani e non solo giovani che non trovano lavoro o lo trovano dequalificato, che si vedono tagliare i fondi per la ricerca, l'istruzione e così via, si presumerebbe di dare a questo grande fenomeno sociale e politico una risposta poliziesca, non sta né in cielo né in terra. Qualcuno obietta, però questi fenomeni di violenza ci sono stati, a qualche giovane si è presentato con caschi, spranghe, eccetera, eccetera. A questo proposito lei cosa dice? Ti dico, guardate che è sempre preferibile mantenere le lotte alla luce del sole, cioè quindi su un terreno pacifico e non violento, e quindi bisogna in qualche modo, come dire, stare attenti, essere vigilanti nei confronti degli elementi che inclini allo scontro. E dopodiché però o qui c'è un lavoro di persuasione politica o la risposta poliziesca, come si è visto nel passato, ha sempre indurito gli scontri, non li ha mai addolciti, e quindi è sbagliato questo genere di provocazione da ogni punto di vista. Cosa hanno di nuovo queste manifestazioni rispetto a qualche anno fa? Ma per adesso hanno, diciamo, questa creatività della protesta, mi riferisco all'occupazione dei monumenti, che ha permesso a questo movimento di far sì che le proprie parole d'ordine abbiano fatto il giro dei media mondiali, diciamo, no? Sui giovani si dice un po' di tutto: se sono rassegnati, non parlano, protestano, non guardano al futuro, si dice che sono appunto appiattiti. Esatto. Se contestano, diventano allora faccinorosi. Ma vede, perché questa è per una ragione molto semplice, nel senso che io ho grande, come dire, disistima per tutti quegli adulti che non si ricordano di quando avevano loro 16, 17, 18, 20 anni. Nel senso che è normale, ma direi è fisiologico, è salutare che un giovane si ponga domande sul proprio presente e sul proprio futuro e cerchi di attivarsi, magari sbagliando, e cerchi di attivarsi per cercare di costruirsi il proprio futuro insieme agli altri. Ma questo è, direi, sangue vitale della democrazia. Parleremo più avanti della situazione maltempo e dei vertici annunciati oggi. Ora invece il rapporto di Banca Italia, che torna a fotografare la situazione delle famiglie italiane. Le famiglie italiane hanno pochi debiti, preferiscono investire nel mattone e contro la crisi hanno scelto investimenti liquidi e sicuri. È questo il quadro che emerge dai dati diffusi oggi da Banca Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane. Una ricchezza che continua ad essere concentrata in poche mani. La metà, infatti, è posseduta dal 10% delle famiglie. Per la statistica la ricchezza media sarebbe di 350.000 euro e circa 2/3 sono investiti nella casa di proprietà. La parte restante si divide tra conti correnti, risparmio postale, BOT in calo e poche azioni, sempre più di società estere. Secondo i dati di Banca Italia del 2009, la ricchezza totale ammonta a 9.500 miliardi, in leggero aumento dal 2008, ma nel primo semestre di quest'anno già c'è stato un calo dello 0,3%. Claudio Celio da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'avvertenza Fiat. La settimana che si apre è considerata da più parti decisiva per l'avvertenza Fiat, almeno per l'accordo su Mirafiori che FIM, Wilm e Fismich, ma anche il ministro Sacconi, ritengono indispensabile entro Natale. Ieri Sacconi ha invitato a chiudere perché ha spiegato in caso contrario avrebbero ragione tutte le Cassandre che hanno dubitato delle buone intenzioni di Fiat. Sul tavolo però c'è anche la questione del contratto del settore auto e della ipotizzata uscita di Fiat da Confindustria. Oggi pomeriggio un incontro tra FIM, Wilm, UGL aprile Federmeccanica ripartirà dall'ipotesi di un'appendice auto al contratto nazionale, che però è meno di quanto richiesto dall'ingotto. Fermo il no della Fiom a un'intesa modello Pomigliano per Mirafiori, il segretario Wilm Rocco Palombella ha ribadito la disponibilità a una Newco per lo stabilimento torinese, purché l'uscita da Confindustria si limiti al solo 2011. Meno tassativo Giuseppe Farina della Fim. Se c'è la possibilità di dare delle norme specifiche o di definire delle norme più specifiche che sono legate all'organizzazione produttiva del settore auto, noi questo lavoro siamo intenzionati a farlo e lo faremo. Richiederà del tempo e certamente nel frattempo però è importante che oltre appunto a Pomigliano si concluda anche Mirafiori, che poi si apra una panoramica su come si procede. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Milano gli sgomberi rom continuano a far discutere e poco fa è intervenuto anche un giudice, Paola Nania. Sì, buongiorno a voi. Il tribunale ha dato ragione ai 10 rom del campo milanese di via Tribognano, i 10 rom che avevano fatto ricorso con il sindaco di Milano Letizia Moratti, il ministro dell'interno Roberto Maroni e il prefetto Gian Valerio Lombardi. Il tribunale civile in modo particolare di Milano ha accolto il ricorso con cui queste 10 persone, questi 10 rom, hanno chiesto l'assegnazione di 25 case popolari, cosa in realtà che era già avvenuta in base a un progetto del comune prima sottoscritto poi bloccato, facendo intendere che ai 10 rom sarebbero state assegnate altre case che non sono mai arrivate. Nel frattempo leggiamo il ricorso dei 10 nomani. Amministratori e politici hanno ripetutamente dichiarato alla stampa che ai rom non sarebbero mai state date alcune case, alcuna casa popolare. Per questi nomadi hanno chiesto che il tribunale accertasse e dichiarasse, leggiamo sempre il ricorso di queste 10 persone, il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle amministrazioni e ordinasse di dare pieno e esatto adempimento ai progetti di alloggio nelle case popolari. La cosa è stata riconosciuta, come dicevi tu poco fa, quindi almeno secondo questa prima sentenza ai rom dovrebbero andare le case previste dal comune. Per ora la linea a te, Anna. Grazie a Paola Nania. Rifiuti si cambia. Da Natale entrano in vigore le maxi sanzioni per chi getta immondizia nelle strade o nei corsi d'acqua. Non parliamo di Napoli ma di tutta Italia, lo spiega oggi il Sole 24 Ore del lunedì. Maxi sanzione in arrivo per i maleducati ambientali e il regalino sarà recapitato proprio il giorno di Natale, quando entrerà in vigore il decreto che recepisce l'ultima direttiva rifiuti. I privati che abbandoneranno avanzi o scarti per strada o li butteranno in mare o in qualche corso d'acqua rischiano di dover pagare da 300 a 3.000 euro per questa violazione e il doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. Prima invece si partiva da 25 euro e si arrivava al massimo a 620 euro. Dopo aver scartato doni e pacchi complicati, attenzione quindi a non pensare di disfarsi di carte, cartoni, nastri, nastrini o residui di cibo ammucchiandoli nelle vicinanze del primo cassonetto strapieno che si trova o buttandoli semplicemente da qualche parte. E attenzione anche a non mettersi in testa per la sera di San Silvestro di eliminare furtivamente le vecchie stoviglie in qualche viuzza isolata assieme al televisore con il tubo catodico. Resta da vedere chi controllerà e quanti incivili saranno convinti dalla sanzione al rispetto ambientale. Intanto una recente indagine di Cittadinanza Attiva ci fa sapere che meno della metà dei comuni è passato al nuovo sistema tarifario per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cosiddetta TIA, e che a pagare di più sono le famiglie campane con oltre 360 euro all'anno, mentre la spesa più bassa è quella dei molisani, appena 131 euro. Rossella Cadeo, Radio 24, Sole 24 Ore. Le notizie di oggi di GR24, i cortei, un malessere da non sottovalutare, l'appello di Napolitano nelle università assemblee per decidere le prossime manifestazioni. Migliaia bloccati, sentivate negli aeroporti europei, lo disse anche di molti italiani, oggi il vertice per il blocco sulla A1. La metà della ricchezza in mano al 10% delle famiglie, il rapporto di Banca Italia. Il comune di Milano dia le case ai rom, un giudice accoglie il ricorso dei nomadi sgomberati. Avete sentito la situazione sulle strade italiane? I disagi maggiori oggi sono negli aeroporti europei, con anche italiani bloccati da giorni. Non si interrompe il caos negli aeroporti del nord del continente. A Bruxelles si vola, ma non verso Londra, Heathrow e Stoccolma. Possono quindi defluire solo in parte le centinaia di persone che anche da due giorni sono bloccate all'interno dello scalo con destinazione la capitale britannica. In Francia gli aeroporti di Orly e Roissy operano a regime ridotto. A Francoforte, il maggiore della Germania, sono stati cancellati 300 voli e nuove nevicate sono attese nel pomeriggio. A Heathrow la situazione è più caotica. C'è la scrive Marcella Frati, viaggiatrice italiana bloccata da sabato a Londra, al microfono di Michele Albini. Tantissima gente, tutta gente ovviamente accampata, anche per continuare arrivare comunque un sacco di gente, e quindi effettivamente sì, questa è quella cosa che ho conosciuto in televisione, questi accampamenti, era la stessa identica cosa. E poi soprattutto non c'è assistenza in questi aeroporti, e questo è veramente, sti di chiamare numeri verdi, ecco, oppure andare su internet, però i numeri verdi non funzionano e internet non è che tutti ce l'hanno a disposizione. Michele Albini, GR24, Il Sole 24 Ore. Nessuna notizia, poca assistenza è quanto lamentano anche gli automobilisti italiani bloccati tra venerdì e sabato sulla A1. Oggi allora è fissato il vertice convocato dal ministro Matteoli per capire cosa non ha funzionato. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. E le cose che non hanno funzionato sono molte. Nell'incontro di questo pomeriggio il governo vuole delle risposte. Tanti infatti disagi subiti dagli automobilisti intrappolati tra venerdì e sabato sulla 1, ma non solo. Tra i più penalizzati vi sono anche coloro che si sono spostati in treno. Da qui il chiarimento al Ministero delle Infrastrutture tra Matteoli e i vertici di ANAS, Ferrovie, Autostrade e Protezione Civile. Chi ha sbagliato paghi, dice intanto Matteoli, proprio dai microfoni di Radio 24. Il ministro esclude responsabilità dell'esecutivo e spiega: sono necessarie regole chiare. Sentiamo le sue parole. Ci sono due aspetti che vanno studiati bene oggi al tavolo. Il primo, ci sono delle responsabilità, si paghi. Il secondo, abbiamo sbagliato, ci sono stati fatti degli errori, cosa possiamo fare per evitare che in futuro si ripeta? Sotto accusa in particolar modo il mondo dell'autotrasporto, le categorie di settore respingono però accuse generalizzate, i consumatori dal canto loro annunciano battaglia, ci aspettiamo risposte chiare dalle società coinvolte, spiegano Adusbef, Federconsumatori, che poi minacciano in caso di non soddisfazione ricorreremo alla class action. Contro Ferrovie dello Stato in particolare si schiera la Dicomsum, che chiede ai vertici delle FS la restituzione dei soldi, dei biglietti. E da Roma è tutto. Vertice fissato alle 16 come sentivate, grazie Vincenzo Miglietta. Naturalmente vi racconteremo nel pomeriggio cosa emergerà. Intanto domani riapriranno le scuole a Firenze, così almeno annuncia il sindaco Renzi, ma anche qui nel pomeriggio si attendono decisioni. Allora andiamo anche a Firenze da Ubaldo Cianciulli. Buongiorno Anna, sì, domani le scuole riapriranno, oggi infatti sono tutte chiuse per consentire di sistemare le strade ancora bloccate dalla neve. I problemi a Firenze non sono terminati con la nevicata. Oggi infatti da stamani la tranvia è bloccata tra Piazza Batoni in direzione di Santa Maria Novella mentre si viaggia in direzione di Scandicci, tranvia bloccata per un guasto all'alimentazione elettrica determinato dalla caduta di rami e infiltrazione di acqua a seguito appunto della nevicata di venerdì scorso. Dicevamo, il sindaco Renzi ha indetto la chiusura delle scuole per oggi, per domani invece è prevista la riapertura. Oggi alle 15 il Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio affronterà tra le altre cose anche la questione neve e ci sono delle teste che potrebbero anche cadere. Il sindaco Renzi ha fatto autocritica dicendo che è responsabilità propria, il sindaco si è assunto pienamente. Ubaldo, qualche indiscrezione su quali teste potrebbero cadere? Diciamo i nomi sul banco degli imputati sono quelli dell'assessore alla mobilità Massimo Mattei, del comandante della Polizia Municipale Massimo Lancillotti e del direttore generale di Palazzo Vecchio Giovanni Mendoni. Questi diciamo sono i nomi che potrebbero, le teste potrebbero cadere per e vedremo buona pace. Vedremo cosa succede oggi pomeriggio. Cosa deciderà Renzi? Grazie anche a Ubaldo Cianciulli. Il volto della chiesa è coperto di polvere, il suo vestito è strappato a causa degli abusi di sacerdoti contro i bambini. Sono queste state intanto le parole, il mea culpa nel discorso di questa mattina di Papa Benedetto XVI. Ha parlato in occasione degli auguri natalizi alla Curia. Andiamo all'estero, è stato riconfermato con il 79,7% dei voti il presidente bielorusso Lukashenko in una tornata elettorale segnata da rivolte di piazza, arresti e accuse di brogli. Gli osservatori internazionali dell'OSCE hanno criticato le elezioni in Bielorussia definendo lo svolgimento non libero e lo spoglio carente e la polizia con mano pesante nei confronti degli oppositori. Sentiamo allora cosa è accaduto. Un copione che si ripete ormai con regolarità. Quando la Bielorussia elegge il presidente, Viktor Lukashenko stravince e la sua polizia soffoca ogni forma di protesta. Ancora una volta la piazza della rivoluzione d'ottobre della capitale Minsk è stata la quinta di un'opposizione soffocata nel silenzio dei media e ridotta a un filo persino nello spazio informatico saldamente controllato dal governo. L'ultima dittatura d'Europa, come è stata definita, sopravvive grazie a un piano sociale basato sulle fattorie collettive che hanno assicurato la stabilità del mondo contadino e nelle città ad un sistema occupazionale di tipo sovietico che vincola l'80% degli stipendi al lavoro statale. Problematici i rapporti con la vicina Polonia, sono però solidi quelli con Mosca, che ha sempre assicurato il suo sostegno. Scalpore ha fatto invece lo scorso anno la visita del premier Berlusconi, l'unico leader occidentale presente da tempo a Minsk. Lo scenario dunque si ripete anche in queste ore. La polizia conferma centinaia di arresti mentre l'opposizione denuncia 7 candidati in manette proprio durante il voto. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. Aprirà alle 14.30 tra un'ora la camera ardente per Tommaso Padoa-Schioppa, allestita nella sede romana dell'Unione Europea. I funerali dell'ex ministro dell'Economia saranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Stefano Micossi, economista, direttore generale di Assoneme, lo ricorda al microfono di Laura Bettini. La cosa straordinaria delle discussioni con lui era l'ottimismo pratico. Cioè, tutte le volte che andavamo da lui e dicevamo, guardandolo il misero spettacolo, come lo guardiamo oggi, dei governanti, aveva questo ottimismo pratico, diceva, ma no, questa crisi è una grande occasione. È evidente come che l'ha detto dell'ultima, tra l'altro, crisi. Come l'ha detto dell'ultima, è evidente che non c'è scelta e che questa crisi produrrà istituzioni più forti. Il suo ottimismo a lunga scadenza sul futuro politico dell'Europa, perché la moneta per lui era l'anticamera dell'unità politica, questo ottimismo nasceva anche dalla comprensione concreta dei meccanismi e delle esigenze che spingono i paesi dell'Eurozona, soprattutto insieme, e dell'Unione, più di quanto a volte non siano essi stessi capaci di riconoscere. Nuovo appuntamento per l'arte. Dopo Giorgione, Palazzo Grimani a Venezia, fino al 20 marzo arriva Bosch con 3 straordinari dipinti. L'intento è quello di valorizzare le collezioni statali, dice il soprintendente ai musei e alle gallerie di Venezia, Vittorio Sgarbi. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Si può dire un trittico, in realtà sono 10 opere che rappresentano un blocco omogeneo rispetto all'autore, ma anche molto potente per l'importanza e la qualità delle tavole. Quindi si tratta di una vera e propria mostra che non era difficile concepire, perché le opere sono tutte a Venezia, una parte erano state già trasferite a Palazzo Grimani, ma non si poteva vederle se non con la prenotazione per l'accesso al museo, e le altre stavano in un percorso molto labirintico di Palazzo Ducale. Messe insieme testimoniano Bosch a Venezia in maniera molto risentita, e soprattutto le opere che erano state acquistate e tenute nella loro collezione proprio dai Grimani, da Domenico Grimani, per cui tornano nel palazzo da cui provenivano. Bosch appare come un surrealista, appare come Salvador Dalì, appare come un Van Gogh, cioè è l'artista più evocativo. Dipinge visioni, incubi, allucinazioni, e quindi questo lo rende di grande modernità. Siamo al calcio, tutti in vacanza dopo la 17esima di A, si va a riposo con Napoli e Lazio all'inseguimento del Milan. E adesso tutti in vacanza, per qualche giorno almeno, prima di riprendere a correre per un anno nuovo che sotto l'albero natalizio lascia una corsa a scudetto aperta più che mai. In attesa che si sciolgano i due grandi rebus, il futuro della panchina dell'Inter, l'arrivo di Cassano al Milan, la Serie A lancia Napoli e Lazio alla rincorsa dei rossoneri capolista caduti nella trappola della Roma. Partenopei che bissano con Lecce il successo nel recupero che già giovedì contro la Steaua era valso la qualificazione in Europa League. La firma sempre la stessa, quella di Bomber Cavani. Questa è una vittoria che è meritata, perché abbiamo insistito tanto, abbiamo sbagliato di tantissimi gol. Soffre e vince anche la Lazio, che piega all'Udinese per 3-2. E all'Olimpico, che fischia la sostituzione di Zarate, Reia risponde a muso duro. qua deve intervenire la società, io faccio il mio lavoro, io faccio i cambi, la gente bisogna che si metta in testa che qualche cambio bisogna farlo, qua di fenomeno non ce n'è. Frena invece la Juventus che a Verona col Chievo va in vantaggio con Quagliarella dopo che Storari ha parato un rigore a Marcolini. Nella ripresa bianconeri in 10 per l'espulsione del giovane Gian Donato e nel recupero anche qui arriva l'1-1 di Pellissier. Lezione amara per la vecchia signora che spera possa almeno tornare utile nell'anno nuovo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Fabio Cantadori in regia, ci fermiamo qui, sono le 13, 28 minuti e 30 secondi. GR24 torna alle 14, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.